Dicevamo il paro campesino in Colombia, una protesta che va avanti dal 19 agosto scorso, blocchi di strade, manifestazioni, violenze da parte delle forze dell'ordine, uccisioni di manifestanti da parte delle forze dell'ordine, una protesta che non accenna a fermarsi e che ha delle rivendicazioni precise, la situazione drammatica del campo colombiano è nota a tutti, è nota da tempo, era nota anche quando si cantavano le lodi della Colombia come paese lanciato verso l'empireo dei paesi sviluppati del mondo, ma era nota anche quando si parlava della guerriglia, dei narcoterroristi colombiani, delle FARC o dell'ELN, delle guerriglie che operano soprattutto nel campo e che proprio nelle contraddizioni, nelle situazioni drammatiche del campo trovano la loro origine e la loro spiegazione. Andiamo a vedere qual è stata un po' la cronologia di questo paro campesino. L'8 agosto scorso la Mesa de Interlocución Agraria, il tavolo di interlocuzione agrario che raccoglie varie organizzazioni contadine colombiane, ha fatto un atto pubblico davanti al Ministero dell'Agricoltura chiedendo anche di essere ricevuto, ma senza avere risposta, dove ha dato a conoscere 6 rivendicazioni precise, le rivendicazioni che poi avrebbe portato avanti nel paro, nel blocco contadino avviato il 19 agosto successivo. Questi 6 punti sono l'attivazione di politiche che affrontino la crisi agropecuaria, quindi agricola e pastorale delle zone rurali colombiane, l'accesso alla proprietà della terra, poi vedremo perché questo è un problema, perché vista l'alta concentrazione della terra e latifondi, quindi vista anche la mancata titolazione della terra per molti piccoli contadini, ossia questi contadini coltivano delle terre sulle quali non hanno le carte che ne provino la proprietà. Riconoscimento della territorialità contadina, partecipazione effettiva delle comunità e dei minatori tradizionali nella formulazione della politica mineraria. Ci sono parecchi minatori nelle zone rurali colombiane, piccoli minatori che portano avanti un'attività mineraria tradizionale e che non vivono molto meglio dei loro compagni contadini. Ci sono zone della Colombia, ad esempio il sur de Bolivar, dove questi minatori hanno formato insieme ai contadini una stessa organizzazione, la Fede Agro Misbol, Federazione Agro Mineraria del Sud del Bolivar, e chiedono una politica mineraria diversa. Quella che è stata promossa in questi anni è stata l'apertura totale delle risorse minerarie colombiane alle multinazionali. Adempimento delle garanzie reali per l'esercizio dei diritti politici della popolazione rurale, investimenti sociali per la popolazione rurale e urbana in educazione, salute, abitazioni, servizi pubblici e vie di comunicazione. Questo perché la richiesta di questo punto potrebbe essere evidente per un colombiano, ma a noi può suonare strana, perché in Colombia, nelle zone rurali, molto spesso l'unica presenza fisica, materiale, visibile dello Stato è quella dei soldati dell'esercito colombiano, perché non ci sono posti di salute, non ci sono scuole, le vie di comunicazione sono strade sterrate che si rovinano alla prima alluvione, comunque con il passaggio delle autovetture, e tutto questo isola le zone rurali colombiane, gli impedisce di integrarsi con il resto della Colombia, integrarsi economicamente, vendere i propri prodotti, e naturalmente lascia nel totale abbandono queste popolazioni. Poi vedremo le cifre del loro livello di analfabetismo, del loro livello di assistenza sanitaria, e sono ovviamente delle cifre che stridono con l'immagine della Colombia come paese in via di sviluppo lanciato verso verso un futuro roseo che addirittura la vedrebbe nella, nella prossima ondata di BRICS, di paesi emergenti. Dijo aquel clavel, dice que no ha muerto el jefe que está pata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad. Sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Questa è una canzone di un eroe campesino del secolo scorso, Emiliano Zapata, il corrido della muerte di Emiliano Zapata. Dieron la vita un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. E anche in Colombia esistono degli eroi, e sono questi campesini che stanno lottando in questi giorni per la loro dignità, perché poi alla fine di questo si tratta. Quando si vede, si vive in delle condizioni così inumane, dove la lotta è proprio per riconquistare un livello minimo di decenza nella propria, per la propria esistenza. Andiamo a vedere un po' le cifre che ci fanno rendere conto di qual è la situazione del, del campo colombiano. Dicevamo prima della concentrazione della terra. Pensate che in Colombia il 77% della terra coltivabile è in mano al 13% della popolazione, quindi la conferma del, della prevalenza del latifondo. Addirittura il 3,6% detiene il 30% della terra, quindi un terzo della terra in mano a 3,6% dei proprietari. E questi proprietari tra l'altro si sono allargati molto spesso proprio con la guerra sporca che è stata fatta in questi anni in Colombia da parte dei paramilitari. Ben 6,6 milioni di ettari, non so se abbiamo ben presente che numero metri quadrati di terra si sta parlando. 6,6 milioni di ettari, quindi un ettaro sono 100 metri per 100 metri, e abbiamo questa estensione di terre coltivabili spogliate da parte della violenza nelle negli ultimi due decenni. Addirittura il 15% della superficie agropecuaria del paese. E che vuol dire spogliata? Vuol dire che là c'erano dei contadini che lavoravano, e le truppe paramilitari sono entrate in quel villaggio, magari spalleggiate dall'esercito, perché in quegli anni la guerra contro le guerriglie veniva fatta in questo modo, anche oggi, ma negli anni 90 e nella prima parte del 2000 era ancora più intensa, e cacciavano la popolazione locale. Ci sono ben 4,5 milioni di profughi interni in Colombia, quindi un decimo della popolazione. La Colombia è il paese al mondo, dopo il Sudan, che comunque sta in guerra civile da 50 anni, dove ci sono più profughi interni. E questo appunto è la situazione drammatica di un paese. E poi uno si chiede perché ci siano tutte queste proteste e ci siano anche delle forme di organizzazione armata di queste proteste in Colombia. nonostante questa mancanza di accesso alla terra, perché poi uno è portato a pensare, vabbè, ma la concentrazione della terra implica anche un'agricoltura industriale, quindi siamo ormai nel XXI secolo, dobbiamo mangiare e bisogna produrre a manetta, non si può lasciare un ettaro al contadino che te produce a malapena per nutrirsi lui. In realtà sono tutte cavolate, perché nonostante la concentrazione della terra, che molto spesso tra l'altro viene utilizzata per l'allevamento, ben il 70% degli alimenti prodotti nel paese, il 70%, la stragrande maggioranza, sono prodotti da piccoli contadini, e quindi c'è anche questa nota da fare. Naturalmente saranno contadini che riescono a vendere nelle città vicine, hanno magari delle vie di comunicazione migliori, eccetera eccetera, perché ci sono delle zone più isolate, altre meno, naturalmente, in tutto il paese. E veniamo un po' alla narrazione di queste giornate in Colombia, poi ritorneremo sulle condizioni che hanno provocato questa rivolta dei contadini, ai quali poi si sono aggiunti anche altri settori della società colombiana, ma naturalmente i protagonisti sono loro, quelli che hanno bloccato le strade sono loro. Strade bloccate significa delle vie che collegano in mezzo una campagna più o meno tropicale, non è la campagna nostra con gli olivi e le viti. Tra l'altro in Colombia, proprio per questa sua conformità geografica, una superficie che è 4 volte quella dell'Italia, c'è un uso molto sviluppato dell'aereo per i trasporti interni, naturalmente per la popolazione che se lo può permettere, non certo per i contadini. Però tutte le merci viaggiano su terra, non viaggiano certo su aereo, e quindi hanno il blocco, un blocco che ha messo in crisi alcuni dipartimenti, i dipartimenti tra i quali alcuni tra i più importanti del paese, in tutti gli angoli del paese, dall'Antioquia a Boyacá, al Valle del Cauca, quindi nord, ovest e sud-est del paese. Questi blocchi sulle strade, con tronchi d'albero, con copertoni, con materialmente, fisicamente, i contadini e gli indigeni e la popolazione delle zone rurali colombiane. Poi naturalmente ci si è aggiunta anche persone solidali provenienti dalle città vicine, e alcune mobilitazioni si sono avute anche in città, hanno iniziato a bloccare il paese dal 19 agosto scorso. Le più larghe mobilitazioni quindi a Segovia, in Antioquia, a Buga nel Valle, a Tunja nel Boyacá, a Ipiales, a Tuquerres nel Nariño, ma ci sono state ben 27 concentrazioni in 20 dipartimenti del paese. 70.000 contadini e 11.000 indigeni sono scesi a bloccare le strade, 6 blocchi stradali principali, 20.000 i poliziotti mandati a sgomberarli. Alcuni di questi sgomberi sono avvenuti in maniera molto violenta, prima con lancio di lacrimogeni, e il primo giovane contadino a cadere è stato proprio una persona colpita in petto da un candelotto lacrimogeno. È morto il 26 agosto, quindi una settimana dopo l'inizio del paro, nel dipartimento di Cundinamarca, che è il dipartimento centrale che ospita la capitale colombiana. E poi in realtà la polizia ha iniziato a sparare anche con armi da fuoco, e sono cadute altre 8 persone, altri contadini e ben 3 giovani uccisi, uno addirittura un adolescente di 16 anni, uccise nelle manifestazioni del 29 agosto a Bogotà. Quindi una grande manifestazione di massa alla quale hanno partecipato tutti i settori che sono scesi in mobilitazione dopo il 20 agosto, quindi soprattutto i lavoratori della salute e dei trasporti e gli studenti, una manifestazione che è stata caricata nella piazza centrale di Bogotà, Plaza Bolívar, che poi ha visto le forze dell'ordine esplodere anche colpi d'arma da fuoco, tre i manifestanti morti. La sera il sindaco dichiarava il coprifuoco nei quartieri periferici di Ciudad Bolívar, Engativá, Suba e Bosa, e appunto avevo detto in apertura di trasmissione come il ministro della difesa abbia denunciato infiltrazioni delle FARC nella manifestazione e per cui ha proposto di processare per terrorismo i detenuti che finora si contano nell'ordine delle centinaia, si è all'incirca attorno a 250 arresti, i feriti sono molti di più, 303 feriti, 11 con arma da fuoco e ricordo appunto 9 morti. Il giorno dopo questa manifestazione del 29 agosto, naturalmente dal 19 al 29 agosto i blocchi erano andati avanti, era il governo che inizialmente aveva detto che non esisteva nessun paro campesino, ha quindi minimizzato la protesta, cosa che ha costato anche a Santos un po' di credibilità anche nel suo elettorato urbano più conservatore, perché dal loro punto di vista naturalmente il paro è il demonio che blocca lo sviluppo della Colombia, e dire che non esiste per loro è sicuramente non è un modo per affrontare virilmente il problema, come si potrebbe pensare pensino questi elettori di Santos, che quindi ha visto il suo consenso abbassarsi fino al 20% secondo i sondaggi. Santos, che poi dicevo ha iniziato a trattare con alcune organizzazioni contadine e soprattutto indigeni in vari dipartimenti della Colombia, alcuni blocchi sono stati smobilitati, ma in 7 dipartimenti nel sud del paese ancora c'è un blocco quasi totale e in altri 10 dipartimenti ci sono ancora mobilitazioni. Proprio ieri il vicepresidente Angelino Garzón si è riunito con i governatori del sud del paese per tentare di porre fine al paro in questa zona. Boca, esto nos provoca la peor situación. Entre todos los fusiles este Garan es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pedo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. ¡Repújele! Tomamos el guardamonte del gatillo, sí señor. Hacia abajo y atrásito, bien chorreadito su disparador. Separemos al instante la culata del cañón. El guardamonte agarremos y desenrosquemos del gas el tapón. Desenchufemos ahora todito el obturador. Vamos al siguiente pase y el cilindro de gas es quito de un envión. Sacamos seguidamente el guardamano inferior y empujando la varilla la parto del brazo del elevador. Entre todos los... E ora proviamo a fare una telefonata con un compagno che stava in Colombia nei giorni precedenti al paro, quindi ci può dare anche una descrizione della mobilitazione che ha portato al paro. Prima vi ricordo qualche altro numero sulla situazione drammatica del campo colombiano. Addirittura, mentre, tanto per vedere la differenza tra città e zone rurali, ricordiamo che spesso colombiani cittadini ci dicono che la Colombia sta bene, che c'è stato tanto sviluppo, che la guerriglia è una questione anacronistica, ma evidentemente sono poco attenti a quello che succede nelle campagne, visto che nelle città i poveri sono il 30% e gli indigenti il 7% secondo i standard gli standard definiti da chi si occupa di queste statistiche, mentre nella Campania i poveri sono il 65% e gli indigenti il 33%, quindi le cifre raddoppiano per quanto riguarda i poveri, e gli indigenti sono addirittura un terzo della popolazione. Per avere una presa più concreta su questi numeri, l'85% della popolazione rurale non ha fognatura e non ha acqua potabile, il 60% della popolazione rurale, e l'analfabetismo arriva al 18,5%, quindi una situazione di vita veramente poco dignitosa, e lo posso anche testimoniare direttamente, visto che ho avuto la fortuna di essere ospitato dai campesinos colombiani, e appunto vivono in una situazione di sussistenza senza nessun accesso a istituzioni tipo servizi sanitari. Se le scuole che hanno sono quelle che si sono auto-organizzate da sé, e l'unica presenza dello Stato che vedono è quella dei soldati, che spesso li fanno pure fuori, perché nella guerra condotta contro la guerriglia non guasta mai far vedere che si è ottenuti dei successi uccidendo qualche contadino e vestendolo poi da guerrigliero, e questo è stato lo scandalo dei falsi positivi che è scoppiato in Colombia negli ultimi anni. Ben 3.000 contadini sono stati uccisi in questo modo da parte dell'esercito. Senti? Sì. Mi sa, finalmente siamo in diretta con il compagno, lo salutiamo. Ciao a tutti. Ciao. E a tutti. Senti, stavamo parlando del paro, abbiamo fatto un po' di narrazione di queste giornate di protesta, abbiamo spiegato anche qual è la situazione drammatica che si vive nelle zone rurali della Colombia. Un po' di cifre sulla concentrazione della terra, sull'assenza di posti di salute, di scuole, di servizi in generale. Abbiamo visto tra l'altro che la protesta ha anche coinvolto altri settori della società colombiana, come lavoratori della salute, lavoratori dei trasporti. Tu che testimonianze ci porti dalla Colombia in cui sei stato fino a qualche settimana fa? Allora, innanzitutto che questa contraddizione che si è iniziata in realtà non è stato un fuoco improvviso, già dagli scorsi mesi, già dallo scorso anno, dagli scorsi anni iniziava a crescere un malestare molto molto forte tra le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni regionali, per fondamentalmente per due questioni o tre, vabbè, non vediamo. Uno, che Colombia ha firmato trattati di libero scambio con 9 paesi con cui scambierà, praticamente sono trattati che permettono il commercio liberi dal pago del dazio doganale. Questo che vuol dire? Che Colombia potrà scambiare e competere direttamente con paesi come gli Stati Uniti, che hanno una politica agraria che per me, con moltissimi contributi, super tecnologizzata, e ovviamente non può competere. Lo stesso vale per la produzione di latte e per un sacco di altri settori, per la produzione di cacao, e quindi tutti questi settori di produzione agricola si sono trovati da un giorno all'altro a competere con i maggiori produttori al mondo degli stessi beni che loro producevano, con situazioni difficilissime, un elevatissimo costo della benzina, dei trasporti, degli antiparassitari, una situazione in cui le migliori terre comunque non sono le loro, e quindi anche il rendimento della terra è molto scarso. Al trovarsi a competere direttamente con queste potenze agricole, hanno iniziato a perdere un sacco di soldi. Questo è un aspetto, diciamo, della situazione del campo. L'altro è che Colombia è stata concessa, si parla di circa 20 milioni di ettari in concessione a megaprogetti e progetti di estrazione mineraria che stanno nuovamente sfollando le persone dalle loro terre e stanno creando una situazione per cui le persone perdono la terra, i lavoratori, quelli che sono quelli che erano gli operai, comunque i braccianti delle grandi imprese agricole hanno perso il lavoro, perché ovviamente i grandi imprenditori agricoli sono ben contenti di vendere, nella maggior parte dei casi, di vendere la propria terra alle grandi imprese multinazionali e di vivere di rendita magari a Miami o in qualsiasi altro posto. E questo ha aumentato ancora di più la crisi del campo. Dall'altra parte c'è un'altra situazione che comunque fa sì che questo paro abbia avuto, questo blocco, questo sciopero generale abbia avuto questa forza comunque molto molto importante: il fatto che il fenomeno, da una parte il fenomeno paramilitare sia un po', diciamo, si è diffuso e un po' disarticolato, disorganizzato, ovvero adesso i paramilitari, che prima era un progetto politico molto molto forte, sono divisi in moltissimi piccoli gruppi, per cui le organizzazioni contadine, le organizzazioni di settore hanno potuto respirare nuovamente e si possono nuovamente, anche se tra mille minacce, tra tantissimi omicidi, però possono nuovamente organizzarsi. E poi il fatto, la rinata, diciamo, i dialoghi di pace, quello che si sta pensando rispetto a una riforma necessaria del campo, stanno dando un nuovo respiro, una nuova speranza a un sacco di gente, per cui un sacco di gente che vive nelle zone rurali colombiane si sente un po' più motivata a organizzarsi e a lottare. Dicevamo anche, mi raccontavi ultimamente dei lavoratori della salute rispetto a una situazione delle istituzioni dei servizi sanitari in Colombia che è totalmente diseguale, in cui una sanità di qualità c'è solo per chi se la può permettere economicamente. Sì, i lavoratori della salute realmente si erano iniziati a organizzare a partire dal 2009, c'era stata una grandissima marcia per la salute, perché il sistema colombiano è un sistema assolutamente, un sistema folle di attenzione medica, no? Più che folle è un sistema molto perverso. Praticamente si divide grosso modo la popolazione in tre fasce, di cui la prima viene curata da un sistema che si chiama SISBEN, ed è un sistema pessimo, è un sistema gratuito, ma un sistema assolutamente che è destinato esclusivamente alle fasce di popolazione indigente, alle persone che vivono per strada, alle persone molto molto a un livello di povertà assoluto, un livello di indigenza molto forte. Poi c'è la fascia mediana, che probabilmente è quella ancora più bastonata, perché ha un sistema completamente privato di salute, per cui bisogna pagare un'assicurazione che è relativamente costosa, però questo sistema privato è un sistema inefficiente, perché prende, tu dai soldi a un'impresa che poi decide quale e se farti fare gli esami, cioè li dai mensilmente a un'impresa e decide se farti fare o non farti fare gli esami. Ovviamente l'interesse dell'impresa è quella di farti fare meno esami possibili per risparmiare e guadagnarci più soldi. E poi c'è un sistema di assicurazioni d'élite, che si chiama il sistema di prepago, di salute prepago, che è quello d'élite, che è sicuramente efficientissimo. Anche i lavoratori sanitari, a parte i pazienti che si mobilitano, e soprattutto i pazienti di infermità croniche, di malattie croniche, poi sono ovviamente anche il personale sanitario, che nei primi due livelli è una situazione di precarietà assoluta. I medici vengono, se tu un medico e fai 4-5 esami al tuo paziente, non azzecchi immediatamente quello che ha il tuo paziente, vieni licenziato perché hai buttato 4-5 esami innecessariamente. Cioè viene comunque anche la professione medica viene devastata, e gli infermieri sono una precarietà e uno scarso reddito allucinante, per cui anche questo settore si è mobilitato. Allo stesso tempo si sono mobilitati i trasportatori, che sono storicamente un settore un po' più di destra, diciamo, e anche perché quando si mobilitano i trasportatori si mobilitano fondamentalmente i piccoli, medi e grandi padroni di camion e di trasporti. Diciamo piccoli e medi, grandi no, e si mobilitano però perché le tasse sono, cioè la benzina in Colombia è la più cara di tutta l'America Latina, nonostante estraggono 1.200.000 barili di petrolio al giorno, perché le strade sono fatte malissimo, insomma, e quindi anche loro hanno aderito a questa protesta, anche se per interessi abbastanza diversi da quelli della maggior parte, da quelli dei contadini o quelli del sistema di salute, che sono degli interessi, diciamo, più collettivi, pubblici, di sovranità alimentare, sovranità agraria e diritto alla salute, mentre invece i trasportatori si stanno mobilitando più per interessi molto più settoriali, che però appunto comunque influenzano su tutta la comunicazione in Colombia. Tutti i trasporti, perché in Colombia non esiste il trasporto, non esiste nessun altro trasporto se non la strada. Certo. E il trasporto su ruota. Certo. Bene, quindi noi siamo arrivati ormai alla fine della trasmissione, sicuramente